L'Apostolo. Leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al punto 76 e 77, la seguente definizione. La trasmissione del Vangelo, secondo il comando del Signore, è stata fatta in due modi. Oralmente, dagli Apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le istituzioni, trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca, dal vivere insieme e dalle opere di Cristo, sia ciò che avevano imparato per suggerimento dello Spirito Santo, meno per iscritto, da quegli apostoli e uomini della loro cerchia, i quali, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, misero in iscritto l'annunzio della salvezza, continuata attraverso la successione apostolica. Affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, gli apostoli lasciarono come successori i vescovi, ad essi affidando il loro proprio compito di magistero. Infatti, la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi. Leggiamo ancora i punti 861 e 862. Gli apostoli lasciarono quasi in testamento ai loro immediati cooperatori l'incarico di completare e consolidare l'opera da essi incominciata. Essi stabilirono dunque questi uomini, e in seguito diedero disposizione che, quando essi fossero morti, altri uomini provati prendessero la successione del loro ministero. Perciò la Chiesa insegna che i vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli apostoli, quali pastori della Chiesa. Chi li ascolta, ascolta Cristo. Chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che Cristo ha mandato. Secondo queste definizioni, se la trasmissione del Vangelo è stata affidata principalmente agli apostoli, se gli apostoli hanno trasmesso la loro autorità ai vescovi, se chi ascolta i successori degli apostoli ascolta Cristo, se chi non ascolta i vescovi non ascolta Cristo, affrontare il tema dell'apostolo e della trasmissione apostolica non è dunque di poco conto. Leggiamo nella lettera che Paolo ha scritto agli Efesini al capitolo 4, versetti da 1 a 16. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qualcosa la Scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. L'Apostolo Paolo, in questa parte della lettera indirizzata agli abitanti di Efeso, ha messo in evidenza la necessità che i credenti di Efeso siano uniti. Anzi, ha invitato gli Efesini a impegnarsi risolutamente al fine di realizzare l'unità che già esiste in Cristo. Versetto 3. I cristiani devono quindi cercare non tanto l'unità, come alcuni credenti insegnano, quanto mantenere quella che ci è già in Cristo, mediante l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza e la reciproca sopportazione, versetto 2. Proprio perché vi è un unico corpo, versetto 4, un unico Signore, versetto 5, un unico Dio, versetto 6, a ciascuno dei figli di Dio, sono stati dati da un unico Spirito dei doni e dei incarichi perché il corpo di Cristo possa crescere e perfezionarsi. Al versetto 11 l'Apostolo elenca 5 ministeri o incarichi. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Per molti studiosi questi incarichi fanno parte dei doni dello Spirito. Noi consideriamo l'apostolato come un ministero, un incarico, un compito. Alcuni studiosi hanno fatto notare che questi 5 ministeri sono così importanti che una chiesa può chiamarsi tale solo se li possiede tutti e 5. Molto probabilmente ciò è vero dal momento che una chiesa per essere tale deve conoscere la parola di Dio, avere una sana base dottrinale, è sorta mediante l'opera di un evangelista o apostolo, è edificata per l'opera di un pastore, dottore e profeta. Nel nostro studio, consideriamo la figura dell'apostolo sotto 3 aspetti. Chi è un apostolo? Il termine apostolo. I doni di Paolo come apostolo. Chi è un apostolo? La parola apostolo deriva dal greco apostello, il cui significato è inviato. Questa parola suggerisce l'idea di autorità e si riferisce ad una persona che ha il diritto di parlare da parte di Dio come suo rappresentante o delegato. Un apostolo, quindi, è colui che viene inviato con un incarico, con una missione. Troviamo questo aspetto in Luca 6:12-17. Or avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12 ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, che soprannominò Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo d'Alfeo e Simone, chiamato Zelota, Giuda, fratello di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu anche il traditore. Gesù aveva molti discepoli, e secondo l'Evangelo di Luca, essi erano più di 70, Luca 10:1. Ma non tutti i discepoli diventarono apostoli, e Luca specifica i loro nomi. L'apostolo è quindi un discepolo, che viene scelto per un incarico. In effetti, dove in Efesini troviamo scritto ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, in greco leggiamo, ed egli diede alcuni inviati. Ciò significa che non tutti i discepoli sono stati inviati, cioè hanno avuto l'incarico da parte di Dio di predicare l'Evangelo. Con questo chiarimento, comprendiamo meglio la formula che comunemente Paolo usa nelle sue lettere per presentarsi ai suoi lettori. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, Romani 1:1. Con questa formula, Paolo si identificava all'inizio delle sue lettere non solo come schiavo di Dio, ma come colui che Dio ha chiamato al suo servizio per presentare l'Evangelo a tutti. In greco leggiamo letteralmente un apostolo chiamato. Non tutti consideravano però Paolo un apostolo. Ecco perché Paolo di tanto in tanto rivendica la sua chiamata da parte di Dio. O Paolo apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, a tutti i fratelli. Galati 1:1. O vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo, dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili nella fede e nella verità, 1 Timoteo 2:7. O infatti io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili, io onoro il mio ministero, Romani 11:13. O Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, 1 Corinzi 1:1. Perché erano messe in discussione le credenziali apostoliche di Paolo? Perché per essere apostoli si doveva far parte dei 12, occorreva una chiamata da Dio ed essere stati con Gesù? In effetti, quando gli 11 apostoli scelsero, dopo la morte di Giuda, un 12° apostolo, si attennero a questi requisiti. Queste sono alcune ragioni del perché non esiste la trasmissione apostolica. Leggiamo in Atti 1, 15-26. In quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai discepoli, pur il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura, che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù. Perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Egli dunque acquistò un campo col compenso dell'iniquità, e essendo caduto in avanti, si squarciò in mezzo. E tutte le sue viscere si sparsero. Questo divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, cosicché quel campo nel loro proprio linguaggio è chiamato Acheldama, che vuol dire campo di sangue. E scritto infatti nel libro dei Salmi: divenga la sua abitazione deserta, e non vi sia chi abiti in essa. E un altro prende il suo ufficio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signor Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo da mezzo a noi, uno di questi diventi testimone con noi della sua risurrezione. Or ne furono presentati due, Giuseppe detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte, e la sorte cadde su Mattia, ed egli fu aggiunto agli 11 apostoli. Proprio perché Paolo non era stato uno dei 12, non era stato testimone con loro della resurrezione di Gesù, alcuni ritennero che Paolo non soddisfacesse i requisiti richiesti. Proprio per questo, nella prima lettera ai Corinzi, leggiamo come Paolo rivendichi il diritto di essere considerato un apostolo, perché Gesù gli era apparso: non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore. 1 Corinzi 9, 1. Noi ammiriamo in Paolo un uomo umile, un uomo che sapeva abbassarsi, ma forse pochi hanno considerato che Paolo aveva un marchio che lo ha umiliato per tutta la vita. Non era un apostolo, come gli altri 11. Gli 11 erano stati scelti da Gesù e riconosciuti da tutti. Lui aveva avuto un'esperienza personale che pochi conoscevano. L'episodio della scelta di Mattia quale dodicesimo apostolo ha ancora più screditato Paolo quale apostolo. Ma mentre Pietro e gli altri scelsero Mattia, Gesù Cristo scelse Paolo come dodicesimo apostolo. Inoltre, ciò che umiliava Paolo era il fatto che lui aveva perseguitato i cristiani. Un accenno lo fa in 1 Corinzi 15, 9. O, io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Nel riconoscere la sua inadeguatezza di essere apostolo, Paolo altresì confermava la sua elezione di dodicesimo apostolo. Il ministero di Paolo si è svolto nella più profonda umiliazione perché non aveva visto Gesù, non l'aveva visto nella gloria come Pietro, Giacomo e Giovanni che erano diventati le colonne della Chiesa. Per noi Paolo è forse stato il più grande apostolo per l'opera e la sapienza che ha mostrato. Se fosse presente tra noi chissà quanti onori gli daremmo, ma la realtà è sempre iconoclasta. Durante la sua vita egli era il meno apprezzato sia come apostolo sia come predicatore perché era ritenuto rozzo nel parlare. 2 Corinzi 11:6. Egli non aveva l'eloquenza di Apollo che i Corinzi stimavano più di lui. Questo è il metodo di Dio. Uomini e donne che oggi non hanno riconoscimenti e applausi, un giorno saranno i più premiati, adempiendosi così quella parte della scrittura: chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Il termine apostolo. Gli apostoli erano 12 e Gesù non ne scelse altri perché l'ufficio di apostolo è unico e non trasmissibile. Ma in senso lato, cioè nel suo significato più ampio, di apostoli, cioè di persone inviate, ce n'erano altre. Per alcuni questo aspetto complica le cose. O salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli. E anche sono stati in Cristo prima di me, Romani 16:7. O tuttavia ho ritenuto necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni, Filippesi 2:25. Come si nota, Epafrodito era un apostolo, cioè un inviato da parte della Chiesa di Filippi. Come dimostrazione che la parola apostolo era usata anche in senso lato, troviamo che anche Gesù viene chiamato apostolo. O perciò, fratelli santi che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Ebrei 3:1. Quindi l'uso del termine di apostolo e dei suoi derivati è piuttosto ampio e comprende, oltre ai dodici, tutti quei cristiani che avevano un ministero fondamentale nella Chiesa. Essi erano stati riconosciuti degni di lavorare nel regno di Dio e inviati nell'opera del Signore. Dal momento che falsi predicatori si presentavano come apostoli, 2 Corinzi 11:139, è evidente che questo appellativo non era limitato ai dodici, altrimenti sarebbe stato facile smascherarli. La religione cattolica sostiene che Gesù ha eletto l'apostolo Pietro a capo della Chiesa. In effetti, in occasione della incoronazione del vescovo di Roma e il presunto successore di Pietro, il cardinale preposto a porre la tiara sul capo del pontefice neoeletto pronunzia queste parole: ricevi la tiara adorna e sappi che sei il padre dei principi e dei re, il reggitore del mondo, il vicario in terra del Salvatore nostro Gesù Cristo, cui è onore e gloria nei secoli dei secoli. Enciclopedia del Cristianesimo, alla voce incoronazione. Nonostante questi presunti diritti del vescovo di Roma, non vi è nessun sostegno biblico. Paolo ha sempre dichiarato nelle sue lettere che il capo della Chiesa era Cristo, e questo quando Pietro era ancora vivo. Non vi è nessuna indicazione, sia nei Vangeli che nelle lettere, che Pietro fosse il capo della cristianità. Anzi, quando l'oratore Tertullo volle accusare l'apostolo Paolo, indicò lui come il capo della setta dei Nazareni, cioè dei cristiani. Nel Concilio di Gerusalemme non fu Pietro ad avere l'ultima parola per concludere i lavori della conferenza, in quanto dopo lui parlarono Barnaba, Paolo e, alla fine, Giacomo, con una proposta conclusiva approvata dal Collegio degli Apostoli. Pietro, in tutto questo, non ha avuto una funzione direttiva. Nel Collegio dei Dodici, Pietro non occupava il primo posto perché, nonostante che i discepoli si conoscessero bene e che Gesù avesse detto a Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa», i dodici chiesero a Gesù chi era il maggiore, Marco 9, 33-34. Se Gesù avesse sostituito e costituito capo della chiesa Pietro, la contesa fra i discepoli per sapere chi di loro fosse reputato maggiore, dopo aver celebrato l'ultima cena, non sarebbe sorta. Pietro era una delle tre colonne del cristianesimo, ma, nonostante questo, il primo concilio della cristianità non è stato né convocato né presieduto da Pietro, Atti 15 e 13. Che poi l'apostolo Pietro fosse un semplice apostolo lo dimostra il fatto che veniva mandato dagli apostoli, Atti 8 e 14, e che a nominare il dodicesimo apostolo, in sostituzione di Giuda, non fu lui, Atti 1 e 26, ma si tirò a sorte. Nella sua prima lettera, egli non si attribuisce nessuna superiorità, afferma semplicemente punto io che sono anziano con loro, 1 Pietro 5, 1. E questo concorda quanto aveva ordinato Gesù in Matteo 23. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Né fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Matteo 23, 8, 10. Inoltre, come apostolo, Pietro non ha mai accettato nessuna forma di venerazione. E facile per una persona influente nel campo religioso essere oggetto di venerazione. È sufficiente guardare la realtà intorno a noi. Il libro degli Atti narra che Cornelio, un pagano, quando vide un uomo, mandato da Dio, cioè Pietro, gli si inginocchiò spontaneamente davanti. Pietro corresse subito il suo gesto malsano dicendo «Alzati, sono anch'io un uomo». Stupendo. Pietro apparteneva alla vera religione. Era un uomo scelto da Gesù, era un apostolo, aveva avuto le chiavi del regno, era una delle colonne del cristianesimo e davanti gli stava, della cultura ebraica, un misero pagano. Eppure non ha accettato né baciamani né inchini, nessun gesto che potesse conferirgli alcuna superiorità. Egli sapeva che non aveva nessuna preminenza e disdegnava, nel modo più assoluto, ogni gesto onorifico. I doni di Paolo come apostolo. Nel mondo greco, l'apostolo era il comandante di una flotta, sottoposto elusivamente all'autorità del comandante supremo. Questo compito richiedeva autorità, organizzazione, strategia. Per tale motivo, Paolo poteva dare degli ordini ai suoi figli spirituali forte di tale autorità. Ora in quello che vi ordino io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. 1 Corinzi 11 e 17. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. Perché, anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. 1 Corinzi 4 e 14, 16. Oltre l'autorità di apostolo, Paolo aveva ricevuto tre doni che erano indispensabili per la completezza nel suo ministero. Ecco cosa scrive nella seconda lettera a Timoteo 1, 8, 11. O non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi, ed ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo di cui io sono stato Paolo era un araldo. Egli annunciava l'Evangelo. Un apostolo. Era stato inviato da Gesù Cristo. Un dottore. Aveva ricevuto la sapienza necessaria per gettare le basi della fede cristiana. Questi tre doni sono indispensabili per fondare una chiesa e organizzarla. Questo spiega perché a volte ci sono dei missionari, cioè degli apostoli, che iniziano una testimonianza e nel giro di pochi anni questa si spegne. Chi svolge il ministero di araldo non sempre è anche un dottore, e viceversa. Per questo, una chiesa, per poter essere fondata e portata avanti, ha bisogno nel collegio degli anziani di più doni. Molto probabilmente, la chiesa fondata dal missionario Goffredo, che ha il dono di evangelista e ha svolto mirabilmente il compito di apostolo, sarebbe ancora unita se egli avesse avuto a fianco un fratello con il ministero di dottore. Paolo non aveva solo il compito di araldo, di apostolo, di dottore. Come ogni altro apostolo, egli operava segni e prodigi, cioè miracoli. Ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. 2 Corinzi mezzogiorno e 12. L'apostolo Paolo ha potuto essere l'uomo che era e svolgere il compito che ha svolto perché ha coltivato i doni che Dio gli aveva dato. È da aggiungere un'ultima cosa. Paolo non era stato chiamato a svolgere il compito di apostolo allo stesso modo degli undici. Non era una colonna della Chiesa, aveva perseguitato i cristiani, ma aveva avuto un'esperienza quale nessun apostolo ebbe, fu rapito al terzo cielo. Sappiamo questo da una delle sue lettere, e solo perché egli fu costretto a raccontarlo per amore e non per vanto in 2 Corinzi 12, 1-10. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. te so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. E, da notare con quanta reticenza Paolo abbia raccontato questa esperienza, egli la narra dopo 14 anni. È un bell'esempio per coloro che in ogni occasione raccontano una loro esperienza particolare e vittoriosa nel campo della fede. La riluttanza di Paolo aveva una ragione. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Siccome si è portati a sopravvalutare che ha esperienze particolari nel campo della fede, Paolo voleva essere considerato non per le sue esperienze, ma per quello che era. Inoltre, consapevole di avere una natura corrotta come tutti, continua, inoltre affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi superbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie e nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole allora sono forte. Dopo aver detto tutto questo, Paolo si rammarica per aver raccontato quello che non avrebbe voluto raccontare. La sua conclusione è veramente mirabile. Sono diventato insensato vantandomi. Voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. In ogni lettera spicca il mancato riconoscimento di Paolo come apostolo, benché io non sia niente. Ma pochi come Paolo hanno saputo lasciare un'impronta eterna nella storia. Vediamone l'applicazione. Lo studio ha messo in evidenza la necessità del ministero dell'apostolo. Ogni chiesa locale dovrebbe avere qualcuno scelto per un compito speciale. Questo potrebbe essere la fondazione di nuove chiese, ma non deve essere necessariamente così. La Chiesa ha bisogno di pionieri, di fondatori di nuove chiese, di persone impegnate nell'opera sociale, cioè di missionari, di apostoli. La Chiesa alla quale appartengo è nata tramite l'opera di un apostolo, di un missionario, Arturo Wiens. Oggi la Chiesa conta più di 100 persone perché vi è stato non solo il lavoro di un missionario, ma anche di chi ha esercitato il compito di dottore, di pastore e profeta. Per questo sarebbe ideale che i mandati, gli apostoli, siano più di uno, perché vi sia completezza di ministeri. Paolo aveva tutti i ministeri, perciò ha potuto non solo fondare chiese, ma anche renderle autonome. Ecco perché non si accontentava di fondare le chiese, ma provvedeva anche alla loro organizzazione. Atti 14 e 23. Come disse qualcuno, l'assenza di un vero ministero apostolico è forse la carenza più marcata e più deplorevole del cristianesimo attuale. Che ognuno rifletti e preghi in proposito. Settembre 2002. Ellero,